con Paolo Piacentini di Federtrek per parlare intanto del suo libro Appennino Atto d'amore. Paolo, ben trovato. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ci racconti questa avventura? Guarda, il libro è praticamente composto di tre parti, a parte la prefazione anche di Paolo Rumiz, insomma molto importante, molto bella. È un libro che nasce con un viaggio, è un diario di viaggio molto intimo che poi rimane nel cassetto per qualche anno, un viaggio di 900 km dalla Liguria fino al paese d'origine, fatto con un grande amico, quindi un viaggio un po' folle, un po' strano, fatto così proprio all'avventura in occasione di un importante compleanno. Poi dopo che succede? Che la mia vita da 3 anni e mezzo in questa parte mi porta a occuparmi dei cammini a livello nazionale e quindi continuare a girare l'Appennino dopo averlo fatto per tanti anni come accompagnatore, quindi incontrare altre storie, ma soprattutto arriva il sisma che ho vissuto in diretta, anche se in modo marginale a Fabriano, ma che poi mi ha visto immerso prima un viaggio con Rumiz. L'ho accompagnato per fare il suo reportage sulle terre del sisma, ma poi dopo noi abbiamo messo in campo, noi dico per Federtrek, insieme al movimento dell'Urico, APE, insomma questo progetto molto bello che è il cammino delle terre mutate, dall'Aquila, quindi per 2 volte ho percorso questo cammino, insomma alla fine il mio amore per l'Appennino cresce, quindi questo libro diventa un libro di impegno civile, cioè nel senso che c'è all'interno, al centro, la parte centrale, il racconto del viaggio di 900 km con le storie che aveva incontrato di ritorno, di resistenza in Appennino, che sono tutte riaggiornate, e poi dopo all'inizio invece c'è un racconto appunto dell'Appennino ferito, e alla fine dico quello che io vorrei che fosse l'Appennino del futuro, che la spina dorsale del paese, insomma. Sì. Paolo, allora io partirei anche dall'esperienza, dalle emozioni, da quello che hai vissuto. Com'è stata? Ma è stata molto bella, molto forte, intensa, intanto vissuta con la persona. Così il mio più grande amico, insomma, e col quale abbiamo fatto varie scorribande in Appennino, sulle Alpi, anche all'estero, accompagnato da gruppi anche civili miei. E poi però questo viaggio appunto è un viaggio particolare perché ogni giorno non sapevamo nemmeno dove andare a dormire. Sapevamo l'inizio del cammino appunto alle Cinque Terre, l'arrivo, poi alla fine abbiamo fatto queste 900 km, più di 900 km, 7 regioni toccate, ed è un'emozione continua il camminare, lo racconto anche nel libro, insomma, perché sono pezzi anche molto intimi. Per me ha rappresentato sempre qualcosa di un contatto molto forte con la natura, con me stesso, una ricerca anche interiore. Poi quello era un momento particolare, ho preso quella battaglia, ero presidente del Parco dei Lucredi, quindi una grossa battaglia in difesa di quella terra. Perché la base voleva mettere un traliccio enorme lì sulla vetta di Monte Gennaro e quindi con un comitato locale facciamo una battaglia. Ero anche un po' stanco di questa situazione, per cui questo staccare la spina e mettermi in cammino così alla giornata è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha fatto toccare tantissime storie che continuo a raccontare anche oggi, insomma, anche fuori dal libro. Il libro è un'esperienza meravigliosa perché mi sta portando continuamente a fare presentazioni anche nei luoghi più sperduti dell'Appennino e quindi narrare ancora quello che sta accadendo in queste terre meravigliose. Domani, insomma, nei prossimi giorni comunque sarò anche in Alto Adige a raccontare questa storia e parlare del confronto tra le terre alte, il confronto tra Alpi e Appennini e parlare appunto di quale può essere il futuro, no? di queste nostre montagne. Così un po' forse da una parte bistrattate, dall'altra attaccate troppo da una speculazione che oggi ha creato spesso solo cattedrali del deserto, insomma, no? Se pensiamo un po' all'abbandono anche, che ne so, degli impianti di risalita che oggi molto probabilmente alcuni non hanno più senso con i cambiamenti climatici. Insomma, un Appennino che ha bisogno di una, come la montagna in generale, di una sostenibilità vera. Sì, Di un sì. approccio più leggero, più di cura, di manutenzione del territorio. Ecco, questo è quello che io racconto nel libro, come mi sta più a cuore anche quando vado in giro a presentarlo. Parlo spesso di cura e di consapevolezza di quanto la montagna ha bisogno di manutenzione ordinaria, di una nuova, nuovo modello di abitare la montagna, che è stato anche distrutto anche da un modello urbano che è diventato un pensiero unico anche per le aree interne, non solo per la città. Rispetto alle zone terremotate, per quello che ho visto io dalla Salaria andando verso i piani di Castelluccio, alcune zone, le comunità più piccole, più isolate, verosimilmente hanno ricevuto un colpo letale, secondo me, per quanto riguarda appunto la piccola comunità. Tu che ne pensi in proposito? dire una verità assoluta, purtroppo, perché se penso ad accumuli, ad Arquata, perché molti parlano di Amatrice. Amatrice è chiaramente un po', sì, no, sì. È il cuore, perché certo. Il 24 agosto ha creato morti pazzesche, ha distrutto una cittadina che è un po' quella che aveva le luci alla ribalta. Anche oggi, pochi giorni fa, hanno fatto questa festa alla Matriciana. Ci sono i riflettori un po' accesi, una terra comunque distrutta, ma ci sono piccoli borghi, quelle frazioni che stanno intorno alla Matrice, ma anche quelle più note come Arquata, appunto, che hanno pretare, prima dicevo accumuli, ma non, per non parlare di Pescara del Tronto, che quando ci passi, poi se ci passa a piedi, insomma, sì, ti rendi, sì, conto che la distruzione è totale. Cioè, come si fa a pensare che un piccolo borgo possa diventare un cumulo di macerie? Quindi sicuramente Salaria, paradossalmente, però è la zona che ha risentito di più di queste scosse, c'è stata più morte, più distruzione, più macerie, perché l'edilizia era molto povera, un'edilizia, io mi ricordo già della prima volta che sono passato, se vedi le macerie sono ciottoli di fiume praticamente, perché ovviamente si costruiva con quello che avevano, sì, una malta che non esiste quasi più, una malta molto povera. Invece ad esempio a Norcia, dove la scossa del 7 ottobre è stata fortissima, il 6.5, quella che ha fatto scendere la faglia del Sibirino di 1,30 m, dicono i sismologi 30 volte superiore a quella di Amatrice, ha creato molto meno distruzione, a parte le morti, perché la gente magari era stata preavvisata già dalla scossa del 26 ottobre, quindi la gente, le persone non erano dentro casa, ma a parte le chiese a Norcia però ha resistito molto di più, perché si era costruito in modo diverso, si era ricostruito in modo diverso, quindi questa è la grande riflessione. E comunque sì, quelle comunità hanno avuto un colpo letale, sarà molto difficile far rinascere delle comunità vere in quei luoghi, perché poi non è che è solo la ricostruzione fisica che conta, conta la ricostruzione anche appunto proprio morale, culturale, sì. E io parlo spesso di ricostruzione autentica e non identica, perché non, nulla può essere più come prima, bisogna, sì, cambiare il modello di costruire, il modello di abitare, di vivere in quelle zone. Sì. Sono esperienze molto belle di resistenza, di gente che rimane, molte esperienze anche di donne, questa è una cosa molto bella, che provano a dare una direzione diversa, però bisogna fare molto di più, molto, sì, di più, le istituzioni non stanno andando nella direzione giusta dal mio, sì, punto di, sì, vista. Ecco, prima accennavi a questo, Paolo, volevo chiederti dal tuo punto di vista su quali elementi si dovrebbe puntare per far rivivere l'Appennino, anche per seguire un modello diverso di vita. Ma sicuramente, dicevo prima, bisogna uscire fuori dal pensiero della cultura urbana, cioè io questo lo racconto da anni, da decenni, al di là del sisma, perché praticamente, come diceva Pasolini, poi dopo, no, la distruzione, il consumismo, l'industrializzazione hanno portato alla distruzione di quella che era una cultura rurale o cultura di montagna che è stata. Oggi non c'è più. Se tu vai in montagna, faccio un esempio molto concreto, ero qualche giorno fa a presentare il libro in Appennino Piacentino, ma mi capita spesso appunto di girare tutto l'Appennino, e tu trovi situazioni in cui magari c'è l'anziano del paese, ma anche persone meno anziane che non conoscono più il territorio, non hanno più la conoscenza, mentre prima c'era la manutenzione ordinaria del territorio, perché c'era il rapporto col bosco, c'era il rapporto con l'agricoltura di montagna, con l'allevamento, che a volte anche in passato ha creato problemi, ma che comunque aveva un po' di equilibrio. Oggi i terrazzamenti abbandonati, no? E sappiamo benissimo, questo lo dico spesso, quanto la montagna, che è così fragile, no? Pensiamo ai dissesti idrogeologici, non hanno bisogno dei grandi interventi successivi, che spesso sono costosissimi e sono fatti anche male, hanno bisogno invece di una manutenzione ordinaria, come si faceva un tempo, ogni contadino, che ne so, andava lì e si curava il suo campo. E io ho fatto una proposta molto interessante, ritengo interessante, che è stata anche dai tecnici dell'ISPRA, che dicono che può essere valida, insomma, no? Cioè, basterebbe che i ritornanti, i giovani che tornano in montagna, che hanno magari anche capacità, no, di essere sui computer, di sapere utilizzare, avere a disposizione un software molto semplificato, per cui tu cosa fai? Hai dati da satellite sul fatto che quel pezzo di montagna dove tu vivi ci può essere una frana, è soggetto a dissesto. Allora tu cosa fai? Da lì lo vedi visivamente, io ti faccio, non so, una defiscalizzazione perché tu torni a vivere in montagna, perché fai il tuo lavoro ma stai lì in montagna, perché gestisci un B&B, perché rifare allevamento di qualità, perché crea comunità anche consapevoli, solidali, e però allo stesso tempo ti prendi cura di nuovo della montagna, e addirittura trasmetti i dati che a me servono a livello centrale per avere un monitoraggio, quindi una sorta, diciamo, di presidio diffuso, di protezione protezione civile diffusa, Sì, questo sì. crea consapevolezza, crea nuovi modelli dell'abitare l'Appennino. Sì. Paolo, ci parli anche un po' dell'attività Federtrek? Federtrek è una federazione che sta applicando tantissimo e si sta preparando, anzi ti ringrazio molto di questa intervista in questo periodo perché stiamo lavorando a cercare anche quest'anno di far coinvolgere, di far partecipare tantissime città, ma tantissimi cittadini, alle istituzioni, associazioni, comitati, a quella che è la giornata nazionale del camminare, che si tiene il 14 ottobre quest'anno, la seconda domenica d'ottobre. Di solito c'è una partecipazione molto forte, è una campagna di sensibilizzazione per dire che il camminare non è solo quello della domenica, solo quello che facciamo in montagna, che va benissimo, che crea turismo solidale, turismo sostenibile, ma c'è bisogno di ridare un'anima alle nostre città, di togliere le macchine sempre di più, sempre di più mezzi pubblici, ma soprattutto riprenderci le strade, le piazze, per farci giocare i bambini, per camminarci, per far diventare luoghi di aggregazione. Veri, quindi la Federtrek, se andate sul sito www.giornatadelcamminare.org, potete trovare tutte le indicazioni per aderire anche come comitati, come associazione si aderisce in modo gratuito, in modo anche creativo, cerchiamo di raccogliere la massima creatività e fare in modo che il camminare diventi veramente una grande rivoluzione culturale necessaria alle città per creare consapevolezza, ma necessaria anche alla montagna, perché se io per esempio nel libro parlo di nuova alleanza città-montagna e città-campagna, cioè i cittadini devono capire che quando vanno in montagna, in territori magnifici, meravigliosi, ma fragili, devono comportarsi in un certo modo. E quindi secondo me chi anche in città prende consapevolezza della necessità di un nuovo modello di vivere la città, di viverla con più amore, con più cura, anche la città ha bisogno di cura, lo sa meglio di me, no? Guarda, Roma Certo. quando si allaga, perché con i cambiamenti climatici, i fenomeni estremi sono sempre maggiori, praticamente sono tutti i bambini che non vengono puliti, per cui insomma, diciamo, non c'è cura del nostro modello di abitare in città, in montagna, in campagna. Quindi questa nuova alleanza è importante. Ecco, la Federtrek fa anche questo. Io ho lanciato l'idea di un escursionismo militante, ad esempio, no? Quindi città, camminare e riprendersi la città, ma in montagna fare escursionismo consapevole, militante, significa osservare il territorio, magari denunciare se ci sono dei fenomeni brutti, negativi, no? Di speculazione, di distruzione del territorio, allo stesso tempo far vivere un'esperienza meravigliosa, un'esperienza veramente, come si dice, profonda alle persone che accompagniamo a conoscere la natura. Bene. Paolo, i riferimenti web ce li hai dati, è stato un piacere, speriamo anche di risentirci presto. Un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie a te, grazie veramente di cuore, un abbraccio e insomma buone trasmissioni.